Ancora più saldi a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Non lasciarti scappare gli extra sconti sui prezzi outlet dei fashion brand più amati e vivi tutte le emozioni di un'estate di shopping. Vieni a trovarci, MacArthur Glen, Destination Joy. E scopri Art Safari, un'invasione di animali colorati che farà divertire grandi e piccini. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale, spazio-temporalmente dislocato, a cura di Carlo Sant'Agostino, Roberto Tomaiuolo, Davide Gatti e Simone Pizzi. Sulla magnifica sigla di questo grande pezzo di storia della televisione, ragazzi, come al solito vi diamo il benvenuto a Quando eravamo futuro, il programma spazio-temporalmente dislocato che fa qualcosa in merito a qualcos'altro. Con noi ovviamente l'autore della puntata, Roberto Tomaiuolo. Ciao a tutti, noi facciamo qualcosa rispetto a qualcos'altro, ma non sappiamo né che cosa facciamo né rispetto a che cos'altro. Quello soprattutto, una cosa, è la cosa più importante. È giusto non sapere, esatto. Noi andiamo senza sapere. Ecco, avete sentito Davide Gatti. Buonasera a tutti, stasera con microfono di emergenza, speriamo mi sentiate adeguatamente. Abbastanza bene, tutto sommato. Carlo Sant'Agostino. Stasera io sono numero 88. Sì. Io sono 120 circa. 88 era la ragazza di Get Smart, no? O no, era 99. Comunque non ci credo che sei 88. No, perché sono dei numeri belli tondi, capito? Ecco. Comunque, allora ragazzi, questa sera... Scusa, tu chi sei? Io sono il numero 64. Stavo per dire 69, però vabbè. E sono il numero 64 e tra l'altro questa sera cambiamo anche base musicale, mettiamo questo rock anni 70, indie rock anni 70 che ci piace, insomma, sotto che tutto sommato secondo me anche un po' in qualche maniera veniva molto utilizzato a livello televisivo. Comunque, prima di iniziare con il vivo della puntata, facciamo riferimento anche a quello che è successo la scorsa settimana, puntata sui Lego, che è piaciuta come al solito, perché ovviamente le puntate che facciamo noi piacciono sempre, poi quando si parla di queste cose molto legate, insomma, un po' all'infanzia, un po' al nerdismo e via dicendo, sono tutti molto molto molto contenti, anche se abbiamo ricevuto un commento, così partiamo subito, proprio boom, abbiamo ricevuto un commento relativo a Lego e Duplo. Carlo, vuoi riassumere tu? Ma semplicemente poi ci siamo anche sentiti privatamente in chat con il buon come si chiama, scusami, si chiama Arturino Mazzei. Arturino Mazzei, perché lui aveva un ricordo molto vivido del fatto che la Duplo fosse un'altra azienda che faceva concorrenza alla Lego, nel caso specifico un'azienda tedesca, e che poi fosse stata incorporata, e non trovava però nessun riferimento su internet di questa cosa, e quindi aveva il dubbio che ci fosse stata una... cioè gli è venuto il dubbio che, siccome il suo ricordo era molto forte, gli è venuto il dubbio che questo fosse stata un'operazione della Lego, che poi negli anni ha considerato la Duplo come un'azienda interna, e quindi da tutte le parti si trovava il fatto che la Duplo fosse una divisione di Lego e non un'azienda esterna che poi fosse stata incorporata. Facendo un minimo di ricerche, gli ho girato alcuni link, ho fatto alcune ricerche in merito, perché ovviamente io non potevo avere subito la verità assoluta. Io mi ricordavo di Duplo sempre come Lego, ma non avevo approfondito più di tanto, In effetti invece era come avevamo detto in puntata, cioè Duplo è nata all'interno di Lego, ci trovano diverse documentazioni di questo. Ok. Senti, ma in merito a questa cosa, tu hai fatto una conversazione o l'hai blastato come fai di solito? Perché, se blasto è perché ho la certezza, se no non blasto. Certo. Che poi siete due blastatori. Abbiamo fatto una ricerca insieme ed è... Mi sentite, ragazzi? Moltissimo. Ok. No, perché è sparita la base di colpo a un certo punto, esondantemente. Comunque abbiamo fatto una piccola ricerca e l'ipotesi che possiamo fare è che fu un qualche tipo di errore dei giornali e dei telegiornali italiani negli anni 70, perché ci fu un periodo in cui il marchio Duplo fu tolto dalla i prodotti per bambini si chiamavano subito Duplo nella Lego alla fine degli anni 60, inizio anni 70, però circa metà degli anni 70 tolsero il marchio Duplo e lo chiamavano Lego Educator, Educational, qualcosa del genere, e poi ripresero in mano il marchio Duplo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, facendone uno studio nuovo, un logo nuovo con il coniglietto, eccetera. Questo ritorno del marchio e del logo Duplo sempre all'interno della Lego probabilmente all'epoca fu venduto per qualche tipo di errore. È un'ipotesi che faccio perché Arturino è assolutamente certo di ricordarsi questi articoli e questi servizi nel telegiornale. Fu interpretato come una acquisizione della Duplo all'interno della Lega. Vabbè, non dobbiamo rifare un'altra puntata. Vi siete chiariti, insomma, fondamentalmente. Sì. Per me è una merendina comunque. Che è il merendero. Duplo, Kinder Duplo, penso, cioè cos'era? Va bene. Mentre giustamente per dare anche un'informativa, insomma, dal punto di vista tecnico, i nostri ascoltatori che sono sicuramente interessati, Lazio 2, Locomotive Mosca 0. Insomma, quindi è importante. Volevo farvi capire che se ogni tanto vi sentite assente, ecco, sapete perché. Insomma, questo volevo dire. E invece, questa volta con questa musichetta Sgan Wayne, molto anni 70, invece questa sera ci spostiamo completamente e partiamo da un mind theme molto particolare, poi magari si fanno delle piccole digressioni anche senza allargarci troppo, perché Roberto Tomaiuolo ci ha proposto... Cosa vi ho proposto? Prego Roberto, agganciati, ritmi radiofonici però, possibilmente. Ma è sera, dobbiamo accompagnare le persone a nanna. Le persone anziane. Sono anziane come noi. Come me. No, allora... ho proposto di parlare di una serie televisiva inglese, cioè Il Prigioniero. Ormai l'abbiamo pubblicato dappertutto, quindi immagino, spero che lo sappiate. Pubblicato. No, anche Simone. E quindi di raccontare un po' la storia di questa serie TV che, oltre a essere, a mio avviso, una delle serie culto, delle più belle trasmesse in quel periodo nel Regno Unito, ha anche una storia molto particolare, e il protagonista, che è anche stato colui che ha scritto alcune delle sceneggiature degli episodi e ha diretto alcuni degli episodi, quindi è tutta una storia un po' particolare che non è conosciutissima in Italia, a parte chiaramente molti che hanno apprezzato invece la serie, e che ha proposto una serie di figure che sono rimaste nell'immaginario collettivo. Quella che di solito viene citata di più è il famoso palloncione bianco, cioè il rover. Poi ne parliamo di questa cosa, perché poi ne parliamo, perché ognuno ha il suo rapporto esperienziale su questa serie TV. E quindi è secondo me una cosa molto interessante. Io sono molto appassionato delle serie televisive inglesi, in particolare di quel periodo, perché le ritengo molto creative, con un'atmosfera abbastanza dark, un po' allucinate anche, se vogliamo, o psichedeliche, insomma, come vogliamo vederla, in quello che secondo me gli anni 60-70, inizio anni 80, è stato il periodo davvero del rinascimento dell'Inghilterra su moltissimi campi, la musica, televisione. Dal punto di vista artistico Londra era il focus in quel momento, insomma. Quindi questo è il motivo, insomma. Non so se vogliamo buttarci dentro. No, tra l'altro, scusa, infatti, prego. Solo poi ti ridò subito. In effetti la televisione inglese già da allora, ma anche da prima, se non, mi dico, se non sbaglio, Andromeda, A come Andromeda, era una coproduzione italo-inglese. Sì, è degli anni 70. Ok, però ok. Nonostante che era in bianco e nero? No, perché io mi confondo col fatto che era in bianco e nero. In realtà Il prigioniero è a colori perché fu girato, anche se fu trasmesso in Inghilterra praticamente in bianco e nero, perché fu girato anche per il mercato americano. Ok. Soprattutto per il mercato americano. In America c'era già la TV a colori. Comunque, in generale, la televisione inglese, diciamo, strizzava molto già l'occhio a un certo tipo di narrativa, no? Poi, diciamo, loro sono stati i creatori di grandi serie da questo punto di vista, insomma, no? Giusto, Roberto? Assolutamente sì, e io già vi dico che insisterò su questa tematica. In particolare, prima o poi faremo qualcosa sugli Anderson e non aggiungiamo altro. Ma no, infatti, perché devi aggiungere Thunderbirds, Thunderbirds, Spazio 1999 e tante altre cose. Ma torniamo. Torniamo al prigioniero. Io farei un incipit su quello che è un po' una sinossi. Incipisci. No, fai. E tu vada. Ti suggerivo. Allora. Ah, suggerivi a me, io ti ringrazio di questo suggerimento. Allora, prego. La serie allora, abbiamo detto, una che serie inglese puttana. Viene prodotta nel 1967, quindi volendo è fuori dal nostro target, però io me la gioco dicendo che è stata trasmessa in Italia la prima volta negli anni 80. La prima volta nel 74, poi negli anni 80, poi negli anni 80, per cui io 1980-81. Con questa scusa diciamo che ce la giochiamo all'interno del nostro target. E faccio un salto, per cui Simone mi ha già bacchettato, ma io lo faccio lo stesso, perché per un fatto particolare, il prigioniero possiamo dire è un agente segreto, si intuisce dallo svolgimento della serie, però non si dice mai il suo nome, non si dice mai esattamente chi sia, quindi l'intera serie si svolge senza mai nominare chi è questa persona, esattamente da dove viene e perché. Ora, come tutte le altre, però. Come tutte le altre puntate. Ma no, come tutte le altre persone anche, serie, intendo dire. Come tutte le altre persone, non hanno dei nomi, hanno dei numeri. Il prigioniero sarà il famoso numero 6, come vedremo. Però qui c'è una particolarità che cominciamo a raccontare, che riguarda l'attore. L'attore Patrick McGowan, che è un attore di origine irlandese abbastanza noto nel Regno Unito, e prima di girare Il prigioniero ha girato un'altra serie che si chiama Danger Man, che è andata in Inghilterra e negli Stati Uniti, questo in bianco e nero, e in Italia è stata poche puntate, per pochissimo tempo credo si chiamasse Gioco pericoloso, ma immagino che nessuno l'abbia mai vista. Io non l'ho mai vista in Italia, l'ho vista perché ho comprato i DVD in Inghilterra. E praticamente qui si racconta una storia particolare di un agente segreto, John Drake, che è appunto Patrick McGowan, che è un agente segreto, non si capisce anche lì benissimo se della NATO o britannico o tutte e due, ed è un agente segreto un po' particolare. Qui si comincia a vedere che Patrick McGowan dipinge se stesso in questa figura in una sorta di anti James Bond, e tra l'altro a Patrick McGowan fu offerto il ruolo di 007. Beh, sì, avevo letto questa cosa, ce l'ha la faccia, però rifiutò perché è contrario adesso ci arriviamo alla sua etica. Rifiutò anche Simon Templar, quello che poi venne girato anche bello ma totalmente diverso come trama da Roger Moore, bello in altro modo. Bello, Simon Templar era bello, dai. Il santo era bello, ma era più un thriller. Questo è completamente diverso. Il motivo è che lui, come si usava a dire, voleva fare una cosa orientata alle famiglie. Poi, questo da vedersi. Quindi niente armi da fuoco, niente seduzione, delle coprotagoniste femminili. Ma parli di Danger Man o del prigioniero? L'attore. Tutte e due. Ah, in generale, ok, sì. Allora, vabbè, io già ci avrei da dire qualche cosa, però va bene, ok, vai. Insomma. Si chiamava no horror, no kissing. Praticamente, a prescindere da quello che possiamo pensare noi, no horror, mica tu. Vabbè, dai, comunque. Se sia giusto, infatti, se sia giusto. Erano gli anni 60, ragazzi. Se sia giusto o sbagliato, e questa è una cosa che lui ha fatto. Quindi plausibile che il prigioniero si riferisca a John Drake, almeno, e il motivo per cui l'hanno sempre negato è un motivo di diritti, almeno questa è la voce che circola nell'ambito di chi ne discute. Tenete presente che c'è una fandom del prigioniero ancora attiva enorme, fanno sagre, ritrovi nella città. Sagre. Esagre non si può sentire, però vabbè, diciamo, fanno delle convention, dai, diciamo. No, esatto. Ci sono state una specie di sagra, facevano a Portmerica, non si può sentire, le patate bollite a forma di rover, la salamella, una città del Galles dove è stata girata questa serie, molto, molto carina. Quindi questo è l'inizio, però arriviamo al prigioniero finalmente dopo solo, quant'è, 18 minuti di trasmissione. Sì, tutto sommato sei stato breve, abbiamo fatto incipitti più lunghi. E arriviamo al prigioniero. Il prigioniero è questo agente britannico mai nominato, che vediamo nella sigla di cui abbiamo sentito l'incipit di nuovo, che arriva in un parcheggio molto, molto agitato, apre una serie di porte alla Get Smart, arriva da quello che sarà il suo supervisore, batte i pugni sul tavolo e noi comprendiamo da quello che viene dopo che si è dimesso in maniera chiaramente abbastanza plateale. Quindi va a casa sua, parcheggia la macchina, si vede che prende dei biglietti e delle foto di una località tropicale, non sappiamo se per vacanza o per altro, ma in quel momento lo gasano, appare una simpatica macchina nera con un tizio in bombetta e si vede che viene gasato e lui si risveglierà all'improvviso. Sembra Lurch, sembra quell'attore lì. Esatto. E si risveglierà in un posto sconosciuto. Si risveglierà esattamente a casa sua, o almeno sembra a casa sua. Si risveglia in una casa che sembra ricostruzione fedele di casa sua, però è all'interno di un appartamento che è in un posto per lui sconosciuto, che scopriremo essere un'isola dove egli appunto ha un pin, un talloncino con scritto il suo nome, che è numero 6, come scopriamo, e quindi si sveglia e si ritrova in questo misterioso villaggio. Egli cerca innanzitutto di capire dove si trova, ma nessuno gli risponde nel modo in cui si aspetta. Cerca di fare delle telefonate, ma l'unica cosa che il centralino gli risponde ha a che vedere col villaggio. Cerca di comprare una mappa per capire dove si trova, ma l'unica mappa che riescono a dargli è quella di questo villaggio. Quindi in questa sorta di allucinazione che probabilmente gli credeva di avere, finalmente viene chiamato nel comune, diciamo così, nell'edificio centrale di questo villaggio, e lì incontrerà quello che è l'amministratore del villaggio, che sarà numero 2, e numero 2 gli dirà che comincerà a chiedergli perché si è dimesso, e questo sarà il leitmotiv di tutta la serie. Quindi il numero 2 continuerà a dirgli che loro vogliono informazioni da lui, in particolare vogliono sapere perché si è dimesso, e faranno tutto quanto necessario per estorcergliele, sia con le buone che con le cattive. In questo momento gli comincerà a girare per questo villaggio, quindi vedrà che è composto da centinaia di persone di diversi ceti sociali e di diversa provenienza. Infatti non è chiaro, durante tutto lo svolgimento del telefilm, se questo posto sia un posto dove mettevano solo gli agenti occidentali che si sono dimessi, oppure di tutto il mondo, perché comunque sappiamo che c'erano persone dell'est, e quindi non è chiaro chi sia al comando di questo villaggio. Nessuno può usare numeri, come abbiamo detto. No, nessuno può usare nomi, ma numeri, ma solo numeri, e c'è solamente una divisione fra prigionieri e carcerieri. Non ci sono dei veri e propri confini, c'è il mare chiaramente, ma esiste un centro di controllo sotterraneo con telecamere e allarmi, che riesce a capire quando uno si sta cercando di allontanare. Cercano di recuperarlo con degli agenti, tra virgolette, dei poliziotti, degli agenti. Quando non ci riescono, mandano il famoso rover, che è quella palla che spaventa, o addirittura, perlomeno in un caso che vediamo, soffoca, uccide uno di questi fuggitivi. Ora, che è di base la cosa più inquietante di tutta la serie televisiva. Sì, se tu lo contestualizzi a un bambino degli anni 70, 80, anche 80, se io avevo 10 esatto, anni, anche 70, quando comunque tu lo vedevi questa cosa con l'effetto sonoro molto tipico dell'epoca, no? Perché oggi lo guardi un po', ti fa sorridere, no? Però tu lo vedevi questa palla che fluttuava, che tra l'altro di per sé è anche geniale come idea, perché essendo una cosa informe, cioè fondamentalmente non la puoi ricondurre né in senso antropomorfico, scusate, né, che ne so, né un golem, né un mostro, né niente, è una palla, cioè nel senso potenzialmente la cosa anche più innocua del mondo, che ti si avvicina con questo fare e ti schiaccia, e è una cosa, ti assorbe, ti aspira, a me è angoscia totale, cioè io ricordo con traumi, ma sì, paurissima. Sì, e invece secondo me dipende un po' dall'età. Io ero un po' più grande e ti assicuro che quando l'ho visto invece lo vedevo con un occhio ridicolo, dicevo, ma che cacchio, una palla, ma non avevano qualcosa di meglio? Vabbè, ma te ti hanno strappato l'infanzia, cioè il minimo è il bello che ce l'avevano. Allora sì, è vero, è stato un incidente. E una cosa che vedremo adesso stasera è che si cerca di dare al prigioniero tutta una serie di significati che nella gran parte dei casi non ha. E come spesso cade, capita con la Sibilla Cumana, quando una cosa è un po' poco chiara e ha successo, nascono una serie infinita di simbologie, di spiegazioni esoteriche, di cose strane, certo, che lo stesso McGowan poi dirà: guardate che voi ci vedete tantissime cose che in realtà non ci sono, non ci sono, o perlomeno non sono state previste. Il rover, sì, perlomeno non c'era. Posta, poi, non è un'opera d'arte, è anche bello vedere quello che noi vogliamo, perché di questo è giusto. Però il rover doveva essere una specie di un buggy un po' più tecnologica. No, overcraft, da quello che leggevo nella discussione, una specie di mini overcraft. Una specie che però appena è entrato in acqua la prima volta è affondato, e da allora non sono più riusciti a schiodarlo da lì. Beh, coglioni, insomma. Esatto, quindi non sapevano che accidente fare. Allora, in quel momento raccontano che hanno visto che c'erano dei palloni meteorologici di sonda, e allora hanno detto: ma prendiamo quello, vediamo cosa riusciamo a farci. Tra l'altro, se ci pensi, un incidente che crea una situazione fortunata, perché voglio dire, è iconica la palla del prigioniero, cioè proprio per me è un'icona. Assolutamente. Beh, anche Caparezza ci ha fatto la canzone. Sì, ma infatti era quello che dicevo, quelli della nostra età. Caparezza fa parte anche in Italia, perché è uscito nell'80-81 in Italia quel telefilm, quindi l'abbiamo visto che eravamo piccoli, almeno quelli della nostra generazione, più o meno piccoli. Io, come ho detto, avevo 10-11 anni, e Caparezza più o meno è lì, non so quanti anni ha, ma non è tanto lontano da noi come età. E questo è evidente, che anche lui è rimasto comunque segnato da quella palla, che tanto che nel video del Siamo fuori dal tunnel ci mette appunto la sfera del prigioniero che ti insegue, perché, e non solo lui in Italia, con tantissime altre citazioni in tutto il mondo, perché è diventato veramente simbolo del prigioniero, se vogliamo, questo rover. E in realtà poi ne hanno usati veramente decine, perché dicono che si rompeva ogni... Immagino. Quindi dicono che è stato comunque complicato gestire questa cosa. Sì, no, sì, perché muoverlo e comandarlo non era niente facile. No, infatti leggevo che era talmente difficile che le scene addirittura venivano girate al contrario. Cioè, siccome non riuscivano a lanciare o a far andare la palla verso la persona in cui doveva andare, allora giravano la scena al contrario, poi girandola, prendevano la palla già vicina e la allontanavano praticamente. Ma non solo, cioè in realtà, se tu vedi, ci sono delle scene in cui la palla viene gestita con inquadrature di primo piano, con praticamente la palla fuori fuoco di terza, come, cioè proprio inquadrato comunque magari di sguincio, oppure magari inquadratura di dettaglio dove si vede solo parte della palla, sì, quindi certo, magari qualcuno la muoveva da sotto. Tra l'altro si vedono anche delle scene questa palla rotola nei vicoli che si squacquera tutta se ci fate caso, insomma, nel senso che magari è un po' più sgonfia, no, del normale. Poi sono fatti comunque una libreria di tante palle che si muovono, che riciclavano, perché ci sono molte volte in cui le vedi che se si muovono in un ambiente un po' neutro è sì, sì, è probabile, tante volte questo succedeva nelle serie TV, nei cartoni animati tantissimo, ma pure nelle serie TV, che certe situazioni le ripetevano magari con tantissimi punti di vista diversi e poi dopo le riutilizzavano senza stare ogni volta lì, anche perché fare delle cose così tecniche per una serie televisiva era una perdita di tempo. Considerate che comunque una serie televisiva doveva essere prodotta dal giorno A al giorno B e bisognava pure, insomma, chiudere poi il prodotto, no? In qualche maniera. Certo, esatto. E quindi si sviluppa la storia di numero 2. Praticamente in 15 numero 2 non hai detto chi era, è il capo del villaggio. Numero 2 è il capo del villaggio, che quindi è colui che tenta in tutti i modi di estorcere queste informazioni. Però cambia numero 2. Sempre. Numero 2 cambia, tra l'altro cambia perché a quello che faceva numero 2 venne un infarto e poi verrà recuperato. Tenete presente che io ho letto alcuni testi su Prigioniero, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta. C'era un'atmosfera invivibile, molta gente, tra cui quel numero 2 e lo stesso McGowan, hanno, dopo aver girato Il Prigioniero, si sono dovuti ritirare per un po' perché hanno avuto degli esaurimenti nervosi. Addirittura mi pare si chiamasse Kern, adesso poi ve lo dico. Parli della vita reale proprio? Sì, l'ho letto anch'io. Praticamente McGowan è una specie di bacchettone paranoide, però come tanti che hanno queste cose è anche un eccellente attore, alla fine è riuscito anche bene come sceneggiatore, però è una persona certamente problematica. E quindi sì, per questo motivo cambiò diverse volte numero 2. Utilizzano una varietà di tecniche per cercare di estrarre questa informazione dal numero 6. Quindi vedremo l'utilizzo di droghe allucinogene, furto di identità, controllo mentale, manipolazione dei sogni, alcune forme di indottrinamento sociale. Quindi è una serie davvero molto particolare rispetto a tutte quelle che giravano. Tutto ciò perché volevano appunto estorcergli il motivo per cui egli si fosse dimesso da agente segreto. Allo stesso tempo vedremo che lui cerca di escogitare dei piani di fuga, o con una finta opera d'arte che in realtà è una barca, o in altre maniere. A volte gli fanno credere, in un bellissimo episodio, gli fanno credere che di essere riuscito a fuggire, lui si ritroverà in un ufficio identico a quello del suo capo e se si sentirà addirittura il Big Bang che suona, però riuscirà ad accorgersi, per un motivo di orari che non tornavano, che era tutta una ricostruzione. Infatti uscirà dall'ufficio e si rende conto che in realtà era di nuovo una ricostruzione dell'ufficio del suo capo a Londra, in realtà dentro questo villaggio. E questo ci fa anche capire che quindi il suo capo doveva essere fra coloro che gestivano questa cosa, altrimenti non sarebbe stato possibile. Intanto permetti, salutiamo in chat Pier G, Walter Sbano e Rizzard, che dice che pure lui facevano gli incubi la palla bianca, insomma. Penso che è una cosa comune. Io l'avrei bucata. Io c'erano due cose che mi facevano terrore in quel periodo. La palla bianca che mi ha fatto terrore in quel periodo era la palla bianca del Prigioniero, chiaramente, e la palletta che trapanava il cervello di Phantasm, non so, che probabilmente nessuno di voi ha mai visto, che è un film di quintultima categoria americano, horror. Sapete, quelli proprio iper indipendenti, quei trash movie che poi alla fine sono diventati dei cult, no? In qualche maniera. E Phantasm c'aveva sta scena di questa palletta che volava, si conficcava sulla fronte del tizio e uscivano due trapani che entravano negli occhi e al di là di quello, a me quella cosa che mi terrorizzò era il rumore del trapano. Io quando ogni volta per molto tempo ogni volta sentivo il rumore del trapano, soprattutto di sera, niente, me cagavo sotto. Io di quel periodo avevi 10 anni, avevi sempre? Sì, forse anche meno, sai? Forse anche meno, perché tu sei più giovane di me, no, Simone? Sono del 72, sì. Sì, allora 2 anni in meno di me, quindi meno, ne avevi 8. Io ne avevo 10, tu ne avevi 8. E io in quel periodo lì mi ricordo, quasi contemporaneo, che mi fece paurissima, era Scanners, me lo ricordate? Madre! No? Era lì in quel periodo lì, era nel 81. Mamma mia, quello me lo ricordo. Quello era bellissimo secondo me comunque. Però adesso usciamo dal seminato. Sì, sì, esatto. Scusa, vai Roberto, poi dopo magari ognuno poi fa. Bello, bello. A giro andiamo a sentire tutti. Scanners è bellissimo. Niente, quindi poi adesso vedremo a parte le ultime due puntate che sono molto belle, molto enigmatiche e per alcuni anche molto sconvolgenti, nel senso che non si capisce bene come finisce questo telefilm. Infatti molti se la presero poi proprio per questo con McGowan. Ha detto addirittura che ha dovuto scappare tipo 2 settimane in montagna per non farsi trovare, una roba del genere. Ma prima di arrivare a questo, qui abbiamo parlato di McGowan, c'è un maggiordomo che è Angelo Muscat, che è nano, è piccolino, che è una delle figure iconiche di questa trasmissione, e il primo numero 2, quello che ha avuto l'infarto e che poi tornerà alla fine delle ultime due trasmissioni, è Leo McCann. E una cosa molto particolare di questa serie TV è la location. Allora, la location è, in realtà non è un'isola, ovviamente, è un paese che si trova nel Galles, Port Merion, è un villaggetto, e lo è, che ha una loro le chiamano Italianate, noi probabilmente diremmo neopalladiane, e che quindi che è una cosa ispirata con certe licenze al Rinascimento italiano che usava in Inghilterra. Ah beh, c'entra un cazzo comunque. però se loro sono contenti così. Però allora io ci sono stato, davvero, posso dire, divertente perlomeno come, ah, è figo, come location. È ancora uguale? È ancora uguale, assolutamente sì. E c'è buona parte di quello dove c'è il giardino, che dove loro di solito sono, è tutto un hotel in realtà. Sì. Ed è veramente fatta bene comunque la ricerca, questa creazione di questo spazio, perché noi vediamo sia nei costumi che creano un giornale, il Tally Ho, sì, che è il giornale del villaggio, c'è la bottega dove lui va a comprare mappe e altre cose, c'è il centralino, ci sono i taxi che però portano chiaramente solo all'interno del villaggio stesso, c'è l'ospedale, c'è il comune, quindi creano un vero e proprio mini universo che è questo qui che vogliono far rivedere, dove appunto mettono queste cose. E in realtà le riprese della location principale sono durate solamente 4 settimane, con una sola visita successiva. Quindi quando noi vediamo questo villaggio, in praticamente un mese hanno girato tutte le immagini e poi le hanno disperse all'interno dei 17 episodi. Certo, ovviamente per ottimizzare anche i costi di produzione, chiaramente. Certo, ricordiamo che tutta sta roba veniva girata con delle truppe e in pellicola, soprattutto. Questa abbiamo detto già l'altra volta, che quelle produzioni all'epoca si giravano totalmente in pellicola, insomma. Esatto. E adesso veniamo a raccontare un attimino quelli che sono gli episodi più finali. In realtà, quindi spoiler a manetta, episodi, insomma. Spoiler a manetta. Magari c'è qualcuno che è incuriosito, se li vuole vedere. E non può farlo, perché si deve solo vergognare se non l'ha mai visto. Se ancora non l'ha visto. In realtà, mi sto vergognando io intanto. Vedi, devi. Se noi, gli ultimi due episodi erano un episodio che poi venne troppo lungo, allora lo svilupparono di più, lo divisero in due. E sono C'era una volta e La rivolta in italiano, o Once Upon a Time e Fallout in inglese. Il penultimo episodio ancora, sebbene aumenta come possiamo dire, il grado di allucinogeni, però ancora una trama che è più o meno comprensibile. Riappare il numero 2, che è quello che abbiamo visto nel secondo episodio, quindi Kern, che vuol far parlare a tutti i costi il prigioniero, quindi vuol fargli dire assolutamente perché si è dimesso. E quindi usa delle onde particolari che lo fanno regredire allo stato mentale dell'infanzia, e poi si chiude con lui in una camera sotterranea, e per motivi a noi ignoti sappiamo che dovranno rimanerci una settimana, che solo uno dei due riuscirà ad uscirne vivo. Quindi noi vedremo il numero 6 che progressivamente passerà attraverso tutte le esperienze della propria vita, fino ad arrivare alla fine a una sorta di inversione di ruoli, dove morirà il numero 2 e quindi cadrà a terra morto. A questo punto entrerà il supervisore, che era colui che stava controllando il tutto, e dirà che ha vinto il prigioniero, e gli domanderà che cosa desidera. A questo punto numero 6 chiederà di essere portato da numero 1, perché chiaramente la curiosità di tutti è, perché noi vediamo tutti i numeri, cioè, fino al numero 2. Esatto, a quel punto non è neanche più la libertà, è proprio sapere che cazzo c'è dietro, insomma. Che cosa c'è dietro. E quindi la penultima puntata termina con questo supervisore che fa uscire da questo sotterraneo numero 6, mentre numero 2 è morto a terra. Ora, l'ultima puntata, Fallout, è assolutamente allucinata, non c'è un altro modo di dirlo. Durante tutta la puntata si sente moltissimo All You Need Is Love dei Beatles. È una piccola curiosità che i Beatles molto raramente hanno concesso le loro canzoni per adattamenti cinematografici, quindi la produzione riuscì ad ottenere questo permesso, e appunto durante tutta l'ultima puntata spessissimo sentiremo appunto queste canzoni. Quasi sentircela, quasi ad averla. Io l'avrei anche mandata, ma un certo si è scordato. Ma, okay. Ma non è che mi sono scordato, voi state parlate, io mi organizzo intanto, no? Dite mandala, arriva Davide e dice mandala, che cazzo, cioè, ma siate un po'. No, ho detto mandala, io qua, cioè, ci starebbe, era un messaggio subliminale il mio. Comunque arriva numero 6, che è uscito da questo sotterraneo ed è accompagnato dal famoso maggiordomo Muscat e da questo supervisore. Il nano. Entra in una caverna dove sono presenti molte apparecchiature e dei personaggi che indossano una maschera mezza bianca e mezza nera. E quindi cominciamo a vedere tutte queste cose che sembrano avere un significato e che scateneranno per decenni i fan che faranno ogni tipo di interpretazione simbolica, metafisica, congetture di tutti i generi. Consideriamo che la serie nelle prime due puntate si apre con una partita a scacchi, poi, no? Quindi c'è anche questo gioco. È la partita a scacchi umana. Esatto, la partita a scacchi umana, la partita a scacchi con l'ammiraglio, cioè c'è questo ritorno del dualismo profondo all'interno della serie, insomma. Certo, bianco e nero, buoni e cattivi, e di cose che sembrano simboliche ce ne tante, così come il simbolo del villaggio, che è quel biciclo, esatto, famoso che si vede. E quindi abbiamo detto, ci sono tutte queste persone con questa maschera mezza bianca e mezza nera, e un giudice, una persona che si mette lì e si congratula con numero 6 perché ha vinto l'ultima prova. E quindi gli dicono, visto che hai vinto l'ultima prova non sei più un numero, adesso sei un individuo. Infatti non lo chiamano più un numero 6, bensì uomo. Comunque non lo chiamano ancora per nome, non sarà mai chiamato per nome per tutta l'intera serie. Quindi viene messo su un trono dove assisterà a un processo che viene celebrato contro alcuni individui ribelli del sistema. E qui abbiamo un esponente della ribellione giovanile, che è numero 48, abbiamo, che quindi viene processato, numero 2, che viene resuscitato, quello che era morto prima nella caverna, che mentre il primo era la ribellione giovanile, costui invece è la ribellione della classe governante. E a numero 6 viene offerto di diventare il leader del villaggio oppure di andarsene. A questo punto però numero 6 chiede di nuovo di essere portato da numero 1. Quindi egli fa un corridoio dove di nuovo si sente questa canzone dei Beatles, arriva in una camera dove vede dentro dei tubi praticamente numero 2 e numero 48 che erano stati rinchiusi, e c'è il nano maggiordomo che gli indica la strada per incontrare numero 1. A questo punto lui entra e vede una persona che ha una tonaca bianca con la scritta 1 e una maschera. Il numero 6 si avvicina, strappa la maschera al numero 1, sotto la maschera del numero 1 si trova una ulteriore maschera che rappresenta una scimmia, strappa la maschera di nuovo da questa ulteriore maschera e si vede per un brevissimo istante che la faccia di numero 1 non è altro che la faccia di numero 6, che quindi è egli stesso. A questo punto lui scappa, è sconvolto da questa notizia, ritorna nella sala dove c'erano tutte le altre persone, innesca un timer, si vede che c'è un razzo, si era già visto prima, lo innesca e riesce a scappare, quindi risale nella caverna e riesce a uscire da questa cosa, da questo bunker, che è quello che scopriamo appunto essere un bunker. A questo punto egli sale su un camion abbastanza lungo e si dirige verso Londra. Arrivano a Londra, arrivano vicino al Big Ben. A questo punto numero 2 si dirige verso un edificio, non sappiamo cosa sia, e il maggiordomo e il numero 6 si dirigono verso la dimora di numero 6, che era quella che abbiamo visto nella sigla, nella prima puntata, dove era cominciato stato tutto, gasato. Dove era stato gasato. E quindi che era casa sua. Punto, che era casa sua. Il maggiordomo entra in casa e vediamo che sopra la casa c'è il numero civico 1 e la porta però si apre in maniera automatica, quindi non deve girare la chiave, esattamente come accadeva nel villaggio. Ok, sì. Quindi c'è questa, e poi praticamente Jeb John. Sì, a questo punto numero 6 salirà in macchina, che era sulla sua Lotus, quella che di nuovo vediamo nella sigla, e si allontanerà. Tutto questo, quindi, è una puntata assolutamente allucinata, non c'è un altro modo di dirlo. Non ha una trama, come posso dire, logica né semplice. Io ritengo che sia assolutamente voluta questa confusione che c'è stata messa. In ultima analisi si dice che numero 1 e numero 6 sono la stessa persona. Evidentemente, immagino, in maniera simbolica questo sì, perché insomma non è possibile che lo siano fisicamente. Però attorno a questa cosa, come facilmente potete immaginare, perché c'era la serie ebbe un certo successo e tutti si aspettavano di capire chi fosse numero 1. Quando scoprirono che in realtà numero 1 era la scimmia e poi numero 6, scoppiò un finimondo. Tutti a dire, ma che è sta merda? Esatto. Sì, anche perché non c'era una vera spiegazione, a parte di chi era il numero 1, del perché tutto quello che avevano visto in tutti gli episodi, no? Esatto. Non c'è minimamente. Nessuna spiegazione, intendo. Cioè, un perché magari c'è nella testa del regista, di chi ha fatto tutto, però li hanno lasciati con nessuna risoluzione a tutte le questioni. Ma tra l'altro, e qua nascono le dietrologie. Nella puntata numero 2, quando lui va da numero 2, scusate la ripetizione, loro cominciano a parlare e numero 6 chiede a numero 2: chi è il numero 1? Numero 2 gli risponde: sei tu numero 6. No, in italiano dice, in italiano non rende, in inglese sarebbe you are number 6, quindi che ha un doppio significato. Cioè, può voler dire, tu sei, chi è il numero 1? Tu sei il numero 6, oppure sei tu numero 6. Allora, molti hanno visto, per una virgola, e esatto, hanno visto che già nella puntata 2 c'era questa anticipazione, cosa che McGowan ha smentito, e lui dice, questa è una delle cose che voi ci vedete, che però in realtà non ci sono. Però, come capite, essendo una cosa così allucinata e confusa, ha dato adito a veramente decine e decine di diverse interpretazioni, come su tantissime altre cose, sul giornale, sul motivo per cui si è scelto quel biciclo. McGowan dirà in un'intervista che per lui rappresentava l'ironia del progresso, nel senso che spesso il progresso genera delle cose meccanicamente molto avanzate e complicate che però non servono a niente. come a suo modo di vedere quello strano biciclo. Si può dire che comunque in generale questa serie TV sia una serie abbastanza, come vogliamo dire, anarchica, che quindi sicuramente esprime dei concetti grazie, insomma, a delle parodie, a tutta una serie di cose, che però esprime appunto dei concetti abbastanza di distacco dalla società normale, questo credo si possa dire. Lo fa appunto attraverso migliaia, se uno la vede tutta, di riferimenti, ne abbiamo visti alcuni. Uno è il saluto, che di nuovo andrebbe ascoltato in inglese, che in inglese è be seeing you, che non esiste come saluto in inglese, mettendo le dita delle mani in un certo modo. Tra l'altro ho messo su Telegram nel gruppo diretta una foto. E quindi è una cosa abbastanza particolare, se vogliamo. È una di quelle serie che o si ama o si odia. C'è poco, a mio avviso, c'è poco da fare, perché è particolare. E per alcuni è una cosa assolutamente geniale e vale la pena di vederli, per altri è solamente il parto della follia di McGoohan. Io ritengo che sia tutte e due le cose, se vogliamo vederla. Guarda, facciamo così, allora sentiamoci il brano dei Buddles, perché così poi dopo magari facciamo un bel giro di commento su quello che è poi un po' l'analisi, anche quello che ci abbiamo visto noi e quello che in realtà è l'opera, insomma. Ovviamente un brano meraviglioso che amiamo tutti quanti, però poi è lungo e tutto così, diciamoci un po' la verità. Allora ritorniamo in studio. Io, se Roberto è d'accordo, farei un giro fra di noi, cioè io, Carlo e Davide, per poi ritornare a te che riraccogli i fili per rintrecciarli, insomma, nel modo in cui magari volentieri li vedi tu, insomma, perché io devo dire la verità, al di là del fatto della palla di cui abbiamo già abbondantemente parlato, cosa che oggi con la memoria di oggi, insomma, col tempo che è passato, chiaramente mi viene anche da dire che faccio fatica a ricordarmi esattamente la sensazione, ma quello che mi ricordo è che veramente mi faceva molta paura, e questa iconicità di quell'oggetto, di quella cosa, poi alla fine comunque è giusto che non sia poi così preponderante, perché poi la serie in realtà in me ha lasciato sempre tantissima curiosità negli anni in cui è capitato che l'hanno riproposta e non l'ho mai magari vista in maniera corretta e coerente, e quindi poi quando ho avuto l'opportunità me la sono ricercata da solo e me la sono riguardata, perché comunque una cosa possiamo dirla con certezza, il fatto che indipendentemente da tutto era una serie che ha lasciato il segno anche a chi l'ha attraversata di più distrattamente. E per quanto riguarda un po' il discorso strettamente legato alla narrativa, io considero Il prigioniero una sorta di ponte, perché chiaro che l'ispirazione da Orwell sicuramente c'è e può anche essere negato in tutti i modi, ma è chiaro che molti riferimenti prendono spunto da 1984, che da quando c'è 1984 un po' tutto ha preso spunto insomma da quel punto di vista, anche perché quella è stata un'opera veramente illuminata. Ma la cosa più importante è che Il prigioniero secondo me ha comunque poi costruito questo ponte che ha dato la spinta propulsiva a decine di serie televisive nei 40 anni successivi, fino secondo me ad arrivare anche a Lost, che secondo me è una serie che da Il prigioniero chiappa, diciamo, a piene mani, non soltanto sul riferimento l'isola, però il fumo nero è un po' la palla, insomma, fondamentalmente. Sì. Il villaggio, sì, insomma, tutto, tutta una serie di... Ma c'è anche una citazione proprio specifica, che sono i font di carattere utilizzato dai documenti della Dharma, che è lo stesso che è stato usato nel prigioniero. Infatti, vabbè, vedi che... È una citazione specifica, quindi diciamo è anche evidente. Diciamo sì, una cosa abbastanza intellegibile. Poi ovviamente sono usciti libri e libri sull'host, su tutto quello che poi era le cose da leggere fra le linee. Secondo me molte sono anche un po' delle esagerazioni. Infatti secondo me le prime 2-3 stagioni dell'host sono un capolavoro, e poi cade in un baratro infinito, perché tu narrativamente puoi aprire 50.000 linee narrative che affascinano il pubblico, ma poi dopo, se non gli sai dare diciamo, è come il prigioniero, come la fine del prigioniero. Sì, qua. Sì, però forse la fine del prigioniero secondo me in qualche maniera forse era più studiata, nel senso, anche perché diciamo che costruire una cosa che dura 7 stagioni quando avrebbe potuto durarne 4-3, insomma, diciamo che, però poi da lì ulteriormente, perché Lost poi alla fine è stata anche spunto, quindi vedi che alla fine la spinta è continuata anche per tante altre serie, molte devastanti chiaramente, perché poi quando vuoi reiterare quel tipo di meccanismo alla fine finisci sempre per saturare un po' la cosa, fino addirittura al remake del prigioniero stesso, che è una serie che tutto sommato non è neanche dispiaciuta, pur ovviamente non avendo il carisma, diciamo, della serie originale, insomma. Quindi ecco, questo è, ti fa vedere quanto determinate opere che apparentemente possono essere, come posso dire, anonime per certi versi, che magari televisivamente in Italia magari se la ricordano in pochi, ma se tu inizi a raccontare sono sicuro che in tanti se la ricordano, in tanti troveranno riferimenti a tante serie che hanno visto poi successivamente negli anni. Per quanto riguarda il discorso del Village, chiaramente lì il riferimento sì, all'autorità, no? Allo schematismo, a comunque il fatto che c'era già la percezione di una visione omologativa, no? Dell'esistenza, omologazione uguale controllo, e quindi lui che era l'elemento anarchico, no? In quel contesto, al di là del motivo e del pretesto narrativo, lui era l'elemento di rottura, no? Forse all'inizio anche un po' esagerato, no? Molto, come posso dire, didascalico, ecco, forse come elemento, però ecco, insomma, devo dire, gran bella serie. Se vi capita, ragazzi, guardate quella originale, ce la trovate tranquillamente tutta in italiano se volete, e in inglese se avete, insomma, la capacità di seguire una serie in inglese su YouTube senza nessunissimo problema, quindi insomma trovate tutte quante le puntate. Per quanto riguarda quelle in italiano, dovete trovare la playlist giusta, perché ci sono alcune playlist che hanno tutte le puntate ma con le puntate un po' messe a cazzo di cane, insomma, quindi non è facile poi ricostruire, però se trovate la playlist giusta c'è l'ordine regolare. Carlo, bella la definizione dell'ordine, a cazzo di cane, è giusto, va bene. Senti, no, allora è stato già detto e ridetto, comunque confermo il fatto che Il prigioniero sia stata una serie seminale e comunque un qualcosa che ha lasciato una traccia, è evidente in tutti i sensi, in qualsiasi modo la vogliamo vedere, anche per il semplice fatto che appunto anche noi, io bambino di 10 anni che guarda su Rai 2 questa serie quasi per sbaglio o comunque perché non è che c'era molto da vedere in quegli anni, e comunque rimane, diciamo, cosa potevamo capire, cioè cosa potevo capire io di bambino di 10 anni di una serie certo. così complessa se la guardi adesso. Infatti mi è rimasta un qualcosa nel, diciamo, nel subconscio, è rimasto dentro, però, no? una specie di ricordo sul fatto della palla che facesse paura. E questo è un ricordo abbastanza specifico, perché, e posso anche ricostruire perché facesse così paura, almeno a bambini o comunque a un certo tipo di pubblico, è che tu vedi questa palla bianca rimbalzante, che era un oggetto assolutamente informe e innocuo, cioè la palla, cosa vuoi che esatto, faccia? Esatto, che ti boffa una palla, certo. E però nel telefilm si comportava all'inizio da guardiano, no? Che lui tentava di scappare, questo andava, pam, lo riprendeva, lo riportava indietro, ma soprattutto la scena di quando assorbe la persona e la persona rimane dentro, no? Si vede la scena, non so se ve la ricordate, la persona dentro la palla che tenta di respirare, che spinge soffoca, con le sì. mani, sì, sì. Esatto. Quella scena lì veramente ti terribile, terribile. È terribile, vista almeno con gli occhi di quell'epoca. E questa, infatti, come a tutti, è rimasta impressa questa palla che rotolava. Però questa serie, da quando la vidi, ma secondo me, Carlo, scusa se ti interrompo, secondo me negli anni 70, se veramente è arrivata in Italia negli anni 70, nel 74, come diceva prima Roberto. Sì, ma nel 74 non l'ho vista. No, no, vabbè, chiaro, è chiaro, però io dico in generale, secondo me negli anni 70 una cosa del genere includeva un senso, insomma, di disagio anche a un adulto, non necessariamente sì, solo a un bambino, insomma. Però vabbè, io me la ricordo nell'80 perché fu trasmessa a colori, poi nell'84 comunque era in bianco e nero e non so che audience ebbe, ma se non ricordo male nel 74 non la trasmisero neanche tutta, la iniziarono, poi la interruppero e la lasciarono stare perché non veniva vista, no, certo. Mentre nell'80 però la fecero integralmente. La palla c'era subito. Io sono abbastanza convinto che anche nell'80, se l'avesse vista mia madre si sarebbe spaventata con la palla, sono sicuro. Palla. Sicuramente, sicuro, sicuro. Comunque, dicevo che a me mi è rimasta nell'inconscio questa serie, ma non la ricordavo, non era qualcosa di specifico, non era come per dire Star Trek, no? Che l'ho visto comunque da piccolo, me lo ricordavo Star Trek, te certo, lo ricordi. Certo. Il prigioniero invece mi era rimasto come un'impressione. Un qualcosa, tanto è che per anni io, quando ero piccolo, dai 10 diciamo fino a forse 20 anni, la confondevo addirittura con un'altra serie che vi ricordate sicuramente, che era Fantasilandia. Me la ricordo Fantasilandia perché? Perché c'era il nano, no, confondele, c'era coso, no, però, dai, che era dai. Sull'isola. Ho capito. Sì, perché io avevo dei ricordi sbiaditi di certo. quella serie, avevo 10 certo, anni, non certo. è che mi ricordavo la trama, non mi ricordavo niente. Poi questa è stata trasmessa nell'80, Fantasilandia nell'82. Erano anche molto vicine, erano due ricordi di qualcosa che ho visto a 10-12 anni. È ovvio che negli anni successivi questi ricordi si erano mischiati, no? Avevano formato una specie di ricordo mischiato. Che poi ho chiarito dopo, quando sono diventato grande, che ho iniziato a ricordarmi, ma c'era quella serie che mi piaceva della palla, così la Fantasilandia, sono andato a vedere, no, non era questa è un'altra. No, perché la Fantasilandia, la palla non ci poteva essere, sicuramente. Non ci poteva essere, certo, però in Fantasilandia c'era l'isola, c'era il nano, no? Capisci che c'era qualcosa. Il razzismo verso il nano, insomma, vabbè. No, comunque ho capito quello che vuoi dire. Capito il senso. Tutto sommato, sì. E ho recuperato poi da grande, in maniera autonoma, come hai fatto tu all'epoca, questa serie per rivederla, e lì poi mi sono reso conto di tutto quello che c'era di seminale all'interno di questa serie, ancora prima di vedere Lost, quindi ti parlo, perché mi ricordo che la recuperai in qualche modo in videocassetta. Sì, sì, anch'io molto prima. Avevo 20 anni, io 20-25 anni ero un appassionato di cinema e di televisione, quindi facevo proprio i miei studi, quindi insomma. Esatto. Io di fantascienza in generale, quindi andavo a recuperare la qualunque fosse lontanamente avvicinabile alla fantascienza. E quindi mi rividi anche questo telefilm. E niente, quindi ti rimane insomma tutto questo senso, certo. E come dici, poi ho notato queste somiglianze anche in Lost, l'ho notate in tante altre serie, cioè mi sono reso conto, e mi sono reso conto anche di quanto questa serie sia comunque rimasta nel subconscio di tanti, di tantissime persone. Quindi è una serie che per forza non puoi dire che non sia un qualcosa di importante, perché se anche una cosa che la guardi così e poi ti rimane, vuol dire che c'è un qualcosa, c'è una genialità, che sia poi questo frutto del caso, del genio, di un mix di queste cose. Questo, come tanti capolavori, non si può mai sapere, non si può individuare, però insomma questa palla è nata per caso, però è rimasta ed è così. Insomma, questo è quello che ricordo e quello che diciamo mi è rimasto di questo show televisivo. Invece Davide, poi scusami, anch'io ho rivisto la miniserie, però non mi è piaciuta così tanto come a te. È piaciuta quella con... No, io non l'ho vista, devo dire la verità. Cioè, no, io l'ho vista e devo dire che invece a me mi ha lasciato un po' così perché è un po' più americana, e quindi New York e cose eccetera. Così, però preferisco l'originale. Va bene, Davide? Sì, eccomi qua. No, io allora ne avevamo già parlato anche fuori onda, forse anche la settimana scorsa. È una serie che ho visto, ma non ho visto. Mettiamola così, un po' brutta. Era un periodo, quel periodo io avevo 15-16 anni, già trafficavo molto con elettronica, computer, roba. Proprio la sera la TV era una roba di... Il mini porno 8. No, il mini porno poi dopo. C'aveva i suoi metro e mezzo. No, in quel periodo avevo già le VHS, ero già più avanti, quello era quando la vostra età, nel periodo di... È vero, noi ci dimentichiamo sempre che sei più vecchio di noi, quindi... Sono 5 anni più avanti, no? Quindi quel periodo io, quando la pubblicavano in Italia, lo vedevo come la TV che ti fa compagnia la sera, per cui non con un'attenzione, la vedevo come col pelo dell'occhio, ed è stata una serie che non ho mai capito una madonna, la guardavo e non ci capivo niente perché non la guardavo con attenzione. Quindi certo, ho un ricordo di una serie che è un casino, cioè, sembrava astratta quasi, una roba poi con questi colori sgargianti strani rispetto alle altre serie che vedevo, sembrava proprio artificiale quasi, no? Sembrava una roba, non so se vi ricordate, che ha tutti questi colori molto, sì, è vero, molto particolari, colorato. Tutto molto colorato, sembrava quasi non dico un cartone animato, ma sembrava una cosa proprio talmente finta. E poi io la palla appunto l'ho vissuta invece come una cosa molto finta, molto, cioè, ma questi come una palla, che per mortazioni sono, cioè mettete lì un che poi brutto, soltanto, no? Nel mondo dei videogiochi, in particolare negli ultimi 20 anni, se dovessimo fare un elenco dei videogiochi che hanno proprio preso a piene mani, ma proprio riccamente a piena mani dal prigioniero, a me viene da The Village, che non c'entra niente, però insomma, vabbè, scusa Davide. Ma niente, comunque, quindi l'ho vissuto in un modo così, e questo telefilm fondamentalmente poi non l'ho mai più approfondito nella vita, anche successivamente, quando avrei avuto modo di poterlo guardare con più calma, ho preferito guardare altre cose, e quello l'ho lasciata lì. Ho avuto un ricordo nel passato del tipo, era una serie del manga, l'ho lasciata lì e non l'ho mai più considerata, e quando ne abbiamo riparlato settimana scorsa, il mio ricordo era di 30 anni fa, cioè non l'ho mai più rivisto niente di quel telefilm, e quindi stasera con interesse ho ascoltato tutta la vicenda per riuscire a capire qualcosa di più di quello che non ho mai visto, quindi ho fatto lo spettatore stasera. Vabbè, può capitare. Di un argomento del quale non ero. Però posso dire un'ultima cosa, che secondo me credo che molte delle congetture che poi i fan hanno fatto, in realtà, considerando i tempi, cioè eravamo negli anni 60, non credo che avessero fatto degli studi sulle frasi particolari. Secondo me molte cose sono venute così e sono state interpretate dai fan come: ah sì, quello ha detto quella frase e allora vorrà dire che, invece in realtà quelli là hanno detto una frase senza succede sapere. Anche, succede anche ai giorni nostri. Sì, sì. Però là, in quei tempi, credo che molte delle cose, e soprattutto l'ultimo episodio, sarà stato anche studiato, ma c'è un po' di random dentro e la gente ci ha reclamato intorno in maniera impressionante. Non ho studiato minimamente l'ultimo episodio. Quello che si dice era che l'hanno costretto a finire prima della previsione di quando volevano finire la serie e hanno dovuto scrivere in fretta e furia una fine, così inventandosela lì per lì in qualche modo. Sì, anche io direi che l'episodio finale poi l'ho rivisto in realtà, perché non ho voluto vedere tutta la serie, e quando non voglio vedere una serie guardo l'ultimo episodio e da lì ne traggo tutte le conclusioni. Anche Lost, di cui si è parlato prima, ho visto le prime tre e gli ultimi 5-6 episodi, ho saltato un buco della Madonna, come è stata la parte ballosa, quindi sì, quello dell'alto castello, l'uomo dell'alto castello, cacchio, come era il titolo, una serie, sì, abbastanza l'alto castello, sì. Sì, ho guardato le prime due stagioni e mezzo, poi ha preso una piega terrificante. Allora, quel telefilm ci ha avuto dei problemi importanti. Anche vedi che a un certo punto sparisce pure l'attore, il giapponese, quello che faceva il ministro. Vabbè, sì. Però non entriamo nel merito, che sennò ci allunghiamo un po' troppo. Però... No, ma era solo per dirti come opero io quando una serie non mi va più giù di tanto, vado a vedere gli ultimi 4 episodi e poi traggo le mie conclusioni e me ne salto magari 3 stagioni. Vabbè, e anche le prigioniere una metodologia tutta tua, questa. Sì, no, sì. La metodologia gatti. È la metodologia per perdere poco tempo e far finta di aver capito tutto. Vabbè. Comunque poi l'uomo dell'alto castello, tra l'altro, è tratto dal romanzone, no? La svastica nel sole. Che insomma, vabbè, alla fine. Grande produzione fino a un certo punto, purtroppo, però le premesse all'inizio c'erano tutte, insomma. Sì, infatti era molto interessante. Comunque, e niente, quindi di fatto non posso dare un grosso contributo, okay, vabbè, se non in particolare sulla palla, come quando è stato detto questa cosa che si faceva del prigioniero, hai detto, ma che è sta cazzata? No, ho pubblicato una foto dove c'era uno spillone con una palla che arrivava e uno spillone in mano, e dicevo con questo finiva il telefilm subito. C'è una puntata dei Simpson che cita il prigioniero, in cui c'è Homer che viene preso e mandato nell'isola, e quando arriva la palla lui con una forchettina di plastica, bam, fine. Ovviamente. Fine del prigioniero. Questo è il modo di dissacrare opere. Vabbè. Vai, l'ultima cosa che ti faccio è una domanda che poi servirà poi magari per Roberto per concludere. Esatto. Ma è stato fatto poi un seguito, giusto sentito, che però non è stato un granché. Per me no, però non è stato all'altezza. Adesso comunque ci arriviamo. Vabbè, okay. Allora facciamo così. Intanto giustamente Davide mi ha ricordato. Allora giustamente un po' più di entusiasmo, dai. Vabbè, io me l'ero scordato, cioè me lo so ricordato stamattina perché me l'ha detto Facebook. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Roberto Tomaiuolo, che insomma giustamente tra l'altro che oggi compie 41 anni. Senti qua. Dai. Vai Roberto, alza le mani. Questa è la tua festa. Dai, alza le mani. Il ragazzino lì sulla macchinetta numero 4 deve scendere. Ragazzi, quelli sul Tagadà non vi dovete buttare così, ragazzi. Il bello è che uno cerca in tutti i modi di dimenticarlo. Attenzione a quelli con i calci in culo, non vi dovete spingere in questo modo. Il codino, lascialo. Brava, lascialo. La ragazzetta col culo grosso l'ha preso, brava. Vabbè ragazzi, Simone, io hai trovato un nuovo lavoro. avrei potuto fare questo nella vita. Triste. Poi la tagliamo nella versione podcast. Ma no, non tagliamo niente. Allora, figurati che io devo andare a cercare il punto e poi dai. Ma no, tu fai tutto. Allora, volevo tornare un attimo all'ultimo episodio. Vai. È vero quello che ha detto Carlo. McGowan dovette scrivere la sceneggiatura dell'ultimo episodio in 2 giorni per una serie di motivi. Perché sarebbero scaduti i contratti per poter fare le riprese, quindi ha dovuto in 2 giorni scrivere tutta la sceneggiatura. Sai, quindi, scusa, per esperienza ti dico, sai che cosa succede quando ci sono queste situazioni? Cioè, dove arriva la produzione e dice, regà, qui noi entro mercoledì se ne domanda a tutti. prendi un pezzo di carta e cominci a scrivere a cazzo di cane, a cazzo di cane, a cazzo di cane, a cazzo di cane, a cazzo di cane, a cazzo di cane. Tu quello lì riprendi quello che fa così, buttate per terra, a un certo punto bava dalla bocca e poi lucida per tutto. Così, così funziona. Cioè. Lo dico per esperienza perché l'ho visto fare, non è che. Stai citando a piene mani il telefilm di. Di che? Boris. No, no, vabbè, ma tu quello che non sapete è che Boris è vero. Nella sua comicità racconta è la verità, vero. Cioè, quindi non è che vai, vai. No, me ne sono reso conto perché mi sono ritrovato io nelle situazioni di Boris quando ho fatto esatto, TV. Esatto. Quindi lo so. Anzi, forse lì è anche peggio lì. Sì, sì. Beh, allora sicuramente non ha potuto rifletterci più di tanto nel fare cose, però alcuni ritengono che per questo motivo l'abbia buttata in questa maniera, soprattutto sul simbolico. Una possibile lettura, insomma, che potrebbe avere un qualche senso, è semplicemente che mentre il pubblico si aspettava che numero uno fosse la super spia, chissà che lui non gliel'ha voluta dare. Quindi come un gesto di rottura, non esiste la super spia, lasciate perdere questo tipo di telefilm alla Bond, per capirci come cosa. Può darsi che abbia un significato, e poi lui comunque era una persona, un provocatore, quindi io ritengo che si aspettasse anche la confusione che ha generato. Venendo invece ad alcune cose in generale, l'impatto che ha avuto Il prigioniero è davvero rilevante. Abbiamo parlato di Lost, ma sappiamo che ha avuto un impatto forte anche per Truman Show. Bravo, lo volevo citare, bravo cazzarola, porca puttana. Vabbè, mi era venuto in mente, però poi me lo sono scordato perché io non segno. Vabbè, vai. Ha lanciato questo, per quanto riguarda Truman Show, e lo sappiamo dagli sceneggiatori, questa, come possiamo dire, questo setting surreale, quindi tutta una serie di cose che poi rivedremo, ovviamente Lost ha preso a piene mani, ma c'è tantissime cose. Abbiamo parlato di videogiochi, Simon the Sorcerer 2 ha dei riferimenti a Il Prigioniero, Runescape, questi sono quelli Aliens contro Predator. Per quanto riguarda film famosi, abbiamo citato appunto Truman Show, serie televisive, abbiamo citato Lost, ma Twin Peaks. In Twin Peaks c'è una scena dove c'è un nipote che si mette una maschera, poi se la toglie e sotto ha la maschera di un gorilla. E quindi questo chiaramente è una citazione. In Matrix, mentre Neo sta scappando da Smith, si vede... mentre c'è l'inseguimento, si vede dentro una casa che c'è un televisore acceso sopra uno degli episodi del Prigioniero. Quindi all'interno di Matrix c'è di nuovo una citazione. Ci sono un sacco di citazioni. Di lì con Matrix ci sarebbe da dire, perché in effetti questa è una dietrologia, ovviamente, perché all'epoca non potevano certo pensare a una roba del genere, però si potrebbe pensare che Il Prigioniero, l'isola, eccetera, sia tutta una realtà virtuale. Ci potrebbe stare. Anche il fatto che il tempo atmosferico non cambia mai, che c'è sempre il sole in tutte le puntate, oggi un'altra giornata di sole, eccetera, il fatto che sia un luogo non luogo, che sia lui il numero 6, anche il numero 1, insomma tutta una serie di cose che potrebbe benissimo, volendo, far pensare a una realtà simulata, una realtà virtuale. Sì, è plausibile almeno. Nella musica, cioè parlo degli Iron Maiden, all'interno del loro album The Number of the Beast c'è una canzone che si chiama Il Prigioniero, per cui hanno chiesto autorizzazione a McGowan per poterla fare, e ce n'è tante altre che adesso chiede l'autorizzazione per intitolare la canzone Il Prigioniero. Mi sembra un po' un eccesso di scrupolo, però insomma. L'ha fatto, no ci credo, però insomma, vedi. In televisione ci sono ovunque delle citazioni sulla serie di Avengers, che in Italia è Agente Speciale, ci sono delle citazioni sopra Battlestar Galactica, quella nuova, quella fatta negli anni 2000, c'è un silone, si chiama numero 6, nell'Uomo Invisibile. Vabbè, però lì è un po' tirata, cioè lì tutti si chiamano. Beh, lì sono omaggi, esatto. Sì, però vabbè, lì c'è, so, tutti si chiamano con un numero, però lì, cioè, tutto, i sei ma... siloni. Alla fine c'hanno tutti un numero. Insomma. Ma ce l'ha detto lo sceneggiatore che voleva essere un omaggio. Eh sì, vabbè, però allora il numero 5 che è l'omaggio a che cosa? Scusa, cioè, nel senso, non è che tu hai costruito sei siloni, gli hai dato un numero perché così il 6 facesse la citazione. Mi sembra un po' pure queste. Cioè, però vabbè, un dai. Po' di ratta per i capelli. No, no, il nuovo bicentenario lui non si chiamava uno non è. Può darsi. Però in Colombo c'è una puntata dove c'è Patrick McGowan. E noi in italiano non lo possiamo vedere, ma quando saluta alla fine dice "Be seeing you". Quindi in una puntata di Colombo c'è una puntata della Donna Bionica dove c'è un tizio che si dimette dal suo lavoro e viene imprigionato per evitare che possa mettere in pericolo la sua organizzazione, comunità. C'è in Babylon 5 un riferimento, c'è in Doctor Who un riferimento. Vabbè, c'è in Mad Men. La BBC cita le sue serie in tutte le sue serie, quindi non è una novità. Ne ha parlato Carlo in Simpson. Insomma, Simpson è proprio un omaggio alla serie. Insomma. C'è anche, come dice in chat, chi è che l'ha scritto? Che in quella puntata di Simpson c'è Patrick McGowan che doppia se stesso, anche in quella puntata di Simpson. Sì, Simone, se riesci a vedere chi ha scritto Francesco, che tra l'altro è stato molto attivo e veramente è un notevole esperto della serie Il Prigioniero. Se lo sapevamo, però vabbè. Abbiamo altre cose in cascina, non vi preoccupate. Per cui in Shrek c'è un riferimento, cioè una piccola serie di 17 puntate davvero ha avuto un impatto durevole e molto grande, forse addirittura inaspettato, voglio dire. Però questo è stato forse inaspettato, quindi... sì, però se ci ragioni oggi col senno del poi, chiaramente è chiaro, insomma, che una serie del genere era potente proprio, comunque in generale, insomma. In un periodo storico anche importante, cioè, quindi dove c'era una forte discussione anche sociale, insomma, sai. Mettiamo le porte del 68, quindi certo, esatto. Era un periodo particolare, insomma. Ecco, i colori di questo telefilm ricordano molto anche quelli dei Beatles, tutti i colori molto sgargianti, di quegli anni probabilmente. Ma anche allucinogeni possiamo anche dire. Allucinogeni, sì, direi, sì, giusto, sì. Giusto appunto. Acidi. Si usano le droghe in questo, cioè, sì. In questo... Sì, si esploravano in quel periodo lì, era quasi la controcultura degli anni 60. Ma se voi prendete Agente Speciale, che è diverso, è molto diverso, però ci sono una serie di puntate che sono comunque molto British, e questa è la cosa che mi piace di queste serie, hanno quel tocco di surreale che è particolare di quella nazione in quel tempo, e spesso in alcuni episodi di tutto questo notiamo ad esempio l'utilizzo di droghe, di allucinogeni essenzialmente. Sai cosa mi è venuto in mente? Lucid, un po' Sky with Diamonds. Un po' adesso mi è venuto in mente, non so se siete d'accordo, lo dico a Roberto perché magari mi ricorda molto anche Wallace and Gromit per certe cose, perché quel villaggetto, lo schema, l'omologazione, sì, quello è proprio l'inglesismo. Esatto, la parte, diciamo, di cultura britannica. Però comunque adesso se io vedo una puntata di Wallace and Gromit, comunque il contesto mi ricorda molto il fatto che comunque poi la caratura ovviamente del villaggio lì era veramente molto britannica, no? Poi alla fine, nonostante che loro facevano riferimento a questa cosa del rinascimento italiano che vedono solo loro, però vi ripeto, allora io ritengo che ci fosse una immensa creatività in tutte le arti in quel periodo, e possiamo ritrovare veramente un filo conduttore se ci si fa un po' di attenzione in moltissimi di, anche perché si ispiravano l'un con l'altro, alla fine erano circoli relativamente piccoli, ITV, la BBC, voglio dire, non è che fossero chissà quanti. La particolarità di questa serie era che era finanziata anche dagli americani, Esatto. Che ne hanno deciso questo era Colori. Era Colori e ne hanno deciso sia l'inizio che poi la morte, purtroppo, diciamo così. Che è durato solo 17 episodi e forse non poteva durare di più perché ha consumato, come vi abbiamo detto prima, gli stessi attori che ne sono usciti veramente tramortiti. Che poi tra l'altro la storia della televisione, del cinema non è piena, però non sono rari eventi di questo livello, cioè nel senso comunque produzioni che hanno avuto un impatto talmente intenso su chi ci ha lavorato dentro, ma in senso globale, non magari sul tizio piuttosto che sul caglio. Insomma, ce ne stanno le storie così, evidentemente poi comunque c'era una pressione dietro dovuta anche a quello che stavano facendo, magari all'immedesimazione, alla convinzione, chi lo sa che ci stava dietro, però sì, interessante anche questo aspetto, insomma. Dimenticavo il remake, diamo solo un'informazione molto veloce. Allora, c'è stato un remake nel 2009, sebbene sia è uscita nel 2009, sia durata molto questa produzione perché è cominciata nel 2005. È essenzialmente americana, quindi già esatto. Questo cambia abbastanza il focus. E c'è Jim Caviezel, il protagonista, che è il Gesù Cristo del film, quello recente su Gesù di Colin, sì. Vabbè, quello lì Mel Gibson. Esatto. Ci sono diverse profondi cambiamenti tematici. Il villaggio non si trova più in questa zona indefinita del mondo, bensì in una zona tropicale desertica, quindi non più nel Galles. Ci sono tutta una serie di differenze. La serie durerà 6 parti, non raggiunge minimamente il livello della serie originale, però io posso dire che l'ho vista, alla fine a chi piace l'argomento si può tranquillamente guardare, insomma, pur non essendo minimamente al livello di quella originale. Sì, la guarderò sì. Perché comunque me l'ero messo in programma, anche se non è una cosa che mi interessa così particolarmente, però lo farò. E questo, insomma, per la prima delle serie televisive di cui vi parlerò durante questa nostra trasmissione, perché come io ho detto, intenzione di, essendo una mia grande passione, è un filone, ecco, magari non su un solo telefilm per il resto, però beh, forse potremo... più in là, molto più in là, per non cercate di congestionare un po' questo aspetto, perché in effetti comunque magari, cioè nel senso, raccontare tutta una serie a volte può diventare un po' ripetitivo se lo facciamo troppo spesso. Però ecco, magari pure una puntata su Dottor Who, secondo me è interessante, perché anche lì ci sono una marea di elementi che si innescano e che si sono innescati poi successivamente. Allora, insomma, quindi il Dottor Who, ci ho pensato, ti dico, ero indeciso se fare Il Prigioniero o il Dottor Who. Il Dottor Who va preparata molto bene. Allora, ed è una Dottor Who una puntata non basta, e almeno diventa una puntata di 8 ore. Vabbè, diciamo sempre condensando per quelli che sono i nostri tempi, chiaramente. Chiaramente va preparata, però io credo che prima o poi la faremo, perché cioè, è importante. No, mettiamo gli orbital. Il buon Davide, mi ricordo che non l'apprezzava. Vabbè, ma Davide non ci piace niente, scusa. No, è su Dottor Who, che è una cosa importante, nel senso che è una cosa molto importante, è bene che vi troviate uno appassionato, perché io veramente, come ho già detto, non ho mai visto un episodio, cioè non so niente, non so neanche cos'è. Vabbè, comunque non è una cosa così immediata, diciamo così, eh. Comunque no. Facciamo così, allora innanzitutto prima o poi. Roberto, se vuoi fare una chiusa, così poi andiamo ai saluti e... Niente, allora io invito chi non l'ha visto a guardarlo, assolutamente sì. No, anche se abbiamo spoilerato tutto, però ammazzo. Però forse meglio. No, in realtà no, non abbiamo spoilerato. Ho spoilerato poco, ma secondo me è meglio, perché sai cosa, vederlo adesso per un ragazzo rischia veramente di capire poco. Quindi io ritengo che con una piccola spiegazione possa capire un pochino di più, o rivederlo perché è un po' che non lo vede, magari dopo averci ascoltato ci fa sapere se questo l'ha aiutato oppure no. È una serie che ha fatto storia, è una serie che ha avuto un impatto, come abbiamo detto, davvero grande, E quindi riguardate questo, e se vi piace questa roba, riguardate anche tutto il filone britannico anni 60-70, che ha davvero tantissime cose che vale la pena di riguardare, che violentando Pizzi un po' per volta io vi farò riascoltare. Ma non è che violenti solo me, cioè, alla fine a me piace anche, perché insomma il problema è mettersi lì a fare il racconto di tutta quanta la serie, insomma diventa un po' un'operazione alla Marco Gualdi, no? Che tu non capisci, ma chi mi ascolta lo capisce, insomma. Vabbè, dai, comunque detto questo, io devo dire poi veramente comunque hai fatto bene, secondo me la scelta era azzeccata, perché forse Il prigioniero comunque in questa maniera, in questo contesto, si presta anche di più. Doctor Who è secondo me una serie fondamentale, importante e amatissima, però forse molto più difficile da farla piacere, perché a chi piace lo ama, chi non lo conosce o non lo apprezza gliene frega, non ne vuole proprio sentire parlare, insomma. E dalla parte è anche comprensibile, perché poi se lo vai a vedere alla fine è quasi come se fosse una serie per le famiglie, però con qualcosa in più, insomma, diciamo così. Vabbè, comunque detto questo, grazie Roberto intanto per questa bella puntata che mi hai riportato. Adesso stanotte sognerò la palla, chiaramente. Io ho visto l'immagine di quell'affare di che dicevi tu del trapano, e in effetti è un pochino. No, ma tu lo devi contestualizzare, cioè sempre ogni cosa. Cioè, io l'ho riguardato adesso Phantasm tipo 2 o 3 anni fa, perché anche quello si trova su YouTube. E anche se solo in inglese, ma vabbè, non è un problema, perché comunque alla fine, cioè, nel senso, è un film fatto con 10.000 lire, dove addirittura se spruzzano del sangue per terra una scena dopo non c'è sta manco più il sangue, cioè, quindi nel senso proprio la mancanza. Però c'è questa scena con l'effetto sonoro che veramente è terrificante per un bambino negli anni 80. Trauma, trauma da psichiatra, sì, da neuropsichiatra, anzi penso, insomma, anche peggio. Vabbè, quello poi magari fare una puntata sui film horror di quegli anni, quella sarebbe figa, sì, è vero. Più che io avevo pensato Dario Argento, un po' tutto anche genere, però io più che horror. Sul filone in sé, cioè nel senso sul fatto di parlare dei film, proprio anche del fenomeno dei film, perché negli anni 80, questa sì, è una cosa importante, c'era questa cosa che i ragazzi si trovavano, prendevano destraforo le cassette dei film di paura e se li guardavano insieme tutti quanti dentro una stanza, perché da solo col cazzo che tu guardavi il film, insomma. Sì, è stato proprio il periodo dei film horror. Sì. Poi c'era, secondo me c'era proprio un tipo di cinema proprio dedicato all'horror per i teenager, tipo Nightmare. Sì, Nightmare per le ragazze, assolutamente. Cioè, poi dopo ci sono stati vari sottogeneri, no? L'horror, esatto. Gore, lo splatter. Nightmare, allora Nightmare, tanta cacca, io Nightmare era il primo, sì, Nightmare. Tanta cacca. Allora, non mi ricordo quanti anni avevo, avevo preso un lavoretto dove praticamente stavo all'aeroporto di Linate e dovevo accogliere quelli che venivano per la mostra del cinema, ed è arrivato Freddy Krueger. È arrivata una bella tizia pure molto simpatica che mi ha ammollato le pizze, perché erano pizze di Nightmare on Elm Street, mi fa portale tu, e lei se n'è andata fuori. Avevo una 500, sono dovuto andare dall'aeroporto fino in fiera a portare queste enormi pizze, che ho scoperto essere Nightmare on Elm Street. Te potevi fregare, se te le fregavi oggi c'avevi una cosa. Esatto, vedi, da collezione voi. Vedi, ritorniamo sempre al solito tema. Bene, ragazzi, allora. Mi avessi dato delle pizze in faccia. Anche, prendi quelle, ehi, tu, prendi queste pizze. Quali pizze? Ben. Esatto. Allora, la prossima puntata tocca a Davide. E quindi sì, Davide, io puoi anche non spoilerare se vuoi, se no spoilera tranquillamente. Di che parliamo la prossima puntata? Non so. Ne dobbiamo parlare anche fra di noi, non so se è un argomento valido, ma l'importante è che sia un argomento valido per te. Poi dopo ormai che abbiamo fatto il porno possiamo fare qualunque cosa, infatti. Beh, capirai, no, com'era la scuola negli anni 70 e 80, e cosa si faceva e cosa si poteva fare quando bigiavamo, e mi cosa piace, ne ho tante da dire, perché mi piace, ce n'è di roba lì, cioè, bravo per oggi, tema bravo, mi piace, bravo oggi non si bigia più, perché voi forse non lo sapete, ma oggi è tutto tutto registrato, controllato. Lo sapete, io ho due figli, se manca un minuto in classe arriva una telefonata, l'SMS, WhatsApp. Che tristezza, tutto sommato. Ci manca solo la telecamera in aula e abbiamo tutto. Veramente. Che tristezza, tutto sommato, se ci pensate. Sono veramente dei. Sì. Infatti, io ho detto sempre a mia figlia prima e a mio figlio adesso: voi siete sfigati proprio. Esatto. Noi invece la mattina c'è la fiera campionaria e andiamo in fiera. Vuoi andare in sala giochi? Andiamo. Bene, mi piace il tema. E invece vi ricordo, giusto perché l'abbiamo già anticipato, la puntata successiva ci sarà Alex Racuglia, che probabilmente sarà anche qui in studio con noi, forse, ora non è detto, perché in teoria dovrebbe arrivare il venerdì, ma se riusciamo a farlo venire, o se no spostiamo la trasmissione il venerdì, vediamo che cosa ne esce fuori, perché come abbiamo detto facciamo il ciclo completo di quattro puntate nostre più una puntata con l'ospite, e il primo ospite ovviamente è Alex Racuglia. Detto questo, io ringrazio e saluto Roberto Tomaiolo per la bellissima puntata sul prigioniero, che veramente mi ha rievocato bei ricordi e anche è stato un ottimo spunto di discussione. Ciao Roberto. E auguri, grazie. Auguri. E ancora auguri. Quanti ne fai, Robè? 21. 21, bravo, bravo. Te li porti proprio male comunque. Per 3, hai visto? grazie, ragazzi. Ringrazio e saluto ovviamente il partecipativo e insomma il coinvolto Davide Gatti. Sì, ecco, ma. Vabbè, dai, insomma, dai, stasera io ho fatto con gusto lo spettatore. Con ogni gusto, tanto gusto, posso farlo anch'io. Ma sì, il gusto, l'importante è farlo col gusto. Esatto. E niente, grazie a tutti per essere stati con noi, dai. Benissimo. E ringrazio ovviamente, saluto ovviamente Carlo Sant'Agostino, numero 88. Benissimo, da me Simone Pizzi è tutto. Vi ricordo domattina dalle 7 alle 8, anzi dalle 7:20 alle 8, torna il mattino all'Oro in Podcast con Leo Varghion, in una puntata un po' particolare perché lui, essendo in trasferta, ci sarò io a fare il coordinamento in esterna, quindi sarà un po' tutta una cosa particolare, insomma, con lui collegato e noi che facciamo la regia direttamente da qua. E poi sabato mattina vi ricordo Disordinati Informati con Michela De Paola alle 8:30, alle 9:30 sabato mattina, mentre domani sera alle 11:00 quasi sicuramente al 99-90% torniamo con la prima puntata di stagione di Runtime by Night. Quindi insomma, se volete, anche questo fine settimana c'è tanta roba da ascoltare, e quindi saluta Massorio, ciao a tutti, ciao.